diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri che vi terrà compagnia per due ore questa mattina del 16 gennaio 2013. Quindi ben svegliati, buongiorno e buona continuazione di giornata con noi, con la nostra musica e col nostro divertimento. Ci sono appunto in ballo tante notizie curiose, tanti consigli magari per vivere una vita, o meglio una giornata, partiamo dalla giornata più serena, più tranquilla e magari anche diversa da tutte le altre. Oggi appunto mi ho detto che è il 16 gennaio 2013 e la chiesa ricorda San Marcello, San Furseo e Sant'Onorato di Arles, e ancora la luna è crescente. Auguri a tutti coloro che oggi fanno l'onomastico, ma soprattutto fanno il compleanno. Noi di CRM più Wake Up vogliamo sempre augurare tanti auguri a tutti coloro che ogni giorno fanno appunto il compleanno, quindi festeggiare in un modo diverso e magari con un diverso augurio anche queste, ogni nostra persona appunto che ci sta ascoltando, che sempre è una nostra carissima fan. E poi abbiamo tanti anche personaggi del mondo dell'arte, dello spettacolo, e in questo caso oggi è nato Vittorio Alfieri, poeta e scrittore. Poi abbiamo Frank Zamboni, inventore e realizzatore della Rolba. Poi abbiamo Elliot Reid, attore. Kabir Bedi, il noto Sandokan, ma chi non se lo ricorda. E poi abbiamo Kate Moss, famosa modella. E poi abbiamo, per tutti i ragazzini che comunque fa sempre simpatia, soprattutto ai grandi e ai piccoli, ci abbiamo Buzz, il cabarettista di Colorado, che si chiama Buzz in arte, però il suo vero nome è Marco Bazzoni. Quindi tantissimi auguri. E siccome qua è Cefalù e molti altri posti cade la neve, ma qua Cefalù no, e c'è soltanto un bel po' di freddo che si sente, perché naturalmente in questi giorni mi ha avuto caldo, quindi quando si abbassano un po' le temperature e lo risentiamo di più, e quindi noi vogliamo un po' ancora di calore, anche perché il sole c'è, il calore manca, e quindi lo creiamo un po' noi, un po' l'atmosfera estiva. E se non chi non meglio di Shakira con Africa. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre de agua, porque esto es África. Mira, mira, waka waka, mira, mira, sangre de agua, porque esto es África. Esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, porque esto es África. E

restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più, oh, di più, oh, di più. Abbiamo confidenza con i demoni interiori, sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene. Pioggia, vento e sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più. Pioggia, vento, sangue nelle vene. Della serie ci vuole un po' di tutto nella vita, un po' di pioggia, un po' di sangue, un po' di energia, un po' di tutto tutto, ma ci vuole anche un po' di memoria, soprattutto quando parcheggi una macchina e poi ti dimentichi dove l'hai parcheggiata. Penso che è un evento che è capitato un po' a tutti, quindi magari volontariamente uno parcheggia la macchina e non pensa poi al momento in cui deve andare a riprenderla dove l'ha messa. Bene, è capitato anche un uomo che da poco ha ritrovato la sua auto, che non aveva più trovato dopo essere stata una festa, pensate, nel dicembre 2010, dopo la quale non ricordava più dove aveva parcheggiato. L'uomo aveva alzato un po' troppo il gomito, quindi era un po' brillo. È una serata fuori con gli amici ed aveva fatto una buona scelta quando ha deciso di farsi raccompagnare a casa ad uno di loro. Ma il problema è che forse proprio a causa dell'alcol l'uomo aveva un ricordo decisamente vago di dove aver lasciato l'auto la sera prima. Dopo una giornata alla ricerca dell'auto, l'uomo non ha potuto fare altro che pensare che gli fosse stata rubata, decidendo di fare denuncia alla polizia. Un danno non da poco, perché faceva il carpentiere l'uomo e quindi aveva anche dentro la macchina gli attrezzi di lavoro per un valore di diverse migliaia di euro. Qualche settimana fa la bella sorpresa, il ritrovamento dell'auto. Un agente di polizia ha causalmente controllato il tagliando della revisione e si è accorto che era scaduta, ha contattato la centrale per segnalare la cosa e da lì l'auto è stata identificata ed il proprietario contattato perché la venisse a prendere. L'auto era quasi 4 km dalla zona dove l'uomo credeva di avere parcheggiato, quindi pazzesco, la notizia veramente incredibile, però lascia la speranza che comunque chi non ricorda poi dove ha messo l'auto, forse fra 3 anni, 2 anni la ritroverà. Buona, la speranza è l'ultima a morire. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey, 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey, 그래 바로 너, hey, 지금부터 갈 때까지 가볼까. Go, go, go. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 하지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up Breathing you in when I want you out Finding our truth in a hope of doubt Lying inside our quiet drama Wearing your heart like a stolen dream Opening skies with you Any longer, we'll run. questi erano gli Zed con Spectrum feat. Matthew Coma, CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri, che si rivolge adesso al mondo maschile più che altro. Però anche voi femminucce state bene in ascolto, perché è qualcosa che comunque riguarda anche noi, perché ci risiamo, come già ribadito tante volte, a sostegno del fatto che Pinocchio era maschio. Ecco arrivare un'altra indagine che mette in evidenza come la bugia sei tutta maschia, come suol dire, ossia sia uno degli sport preferiti da lui. Ma è tutto vero? Sì. E ci dà la risposta appunto il Times of India, a riportare l'elenco di quelle che sarebbero le 10 bugie preferiti dagli uomini. Forse più che di bugie vere e proprie si tratta di omissioni di verità, magari per mantenere uno status quo. E perché appunto il tema è la nostra reazione, la reazione di lei, della partner, per non dare un dispiacere alla partner, o anche perché in questo modo si evitano tanti problemi. La top 10 delle scuse più gettonate dagli uomini è questa. Al primo posto, mi sa che voi vi ritrovate molto voi maschietti, quindi non ridete sotto i baffi se li avete. Allora abbiamo al primo posto: non la stavo guardando. Lui negherà fino alla morte che stava osservando un'altra donna proprio mentre la sua partner era con lui. Quindi questa è la scusa più gettonata dai maschi. Poi al secondo posto c'è: non ho fumato una sigaretta, oppure ho drasticamente ridotto il numero di sigarette, quando invece non è vero. Oppure l'altra scusa appunto per addolcire la moglie e la fidanzata è: sogno solo te, ma mi sa che non è vero del tutto. Poi al quarto posto: ero troppo qualificato per quell'azienda. Questa è una delle più frequenti scuse per non aver ottenuto un certo posto di lavoro, per averlo perso. Poi al quinto posto: con il GPS domino la strada. La verità è che anche con questi giocattoli tecnologici anche molti uomini riescono a smarrirsi, comunque non sono solo le donne. Poi al sesto posto: non posso stare più di un giorno senza di te, ma non è tanto vero, mi sa. E quando sentono questa frase, le donne più maliziose sospettano subito che lui nasconda qualcosa, un secondo fine. Poi al settimo posto: non stavo dormendo, stavo pensando. Anche se questo è davvero un modo che l'uomo utilizza per pensare. A lui non piace essere ripreso dalla sua compagna per questo comportamento. Allora accade che anche se per qualche minuto si è appisolato, lo negherà con forza. Poi all'ottavo posto: non mi sono dimenticato, l'ho soltanto momentaneamente tolto dalla testa. C'è anche questa scusa. Al nono: poi noi non pensiamo a un qualcosa tutto il tempo. Questo sembra essere una mezza bugia. In realtà gli uomini non riescono a fare a meno di rimurginare su una questione per tutto il tempo, fino a che magari non si è risolta, specie se si tratta di un problema di lavoro. Quindi questo è un piccolo segretuccio che abbiamo svelato di voi maschi. E poi al decimo posto: non sto perdendo i capelli, è la faccia che si sta espandendo. L'orgoglio e la vanità maschili subiscono un brutto colpo quando i capelli iniziano a cadere. In questo caso è un po' non ammettere la realtà e mentire a se stessi per illudersi che non sia così. Quindi questi sono i piccoli 10, possiamo dire, segreti dei voi maschi quando volete mantenere uno status quo, oppure volete domare la donna, nel senso: stai tranquilla che io sto facendo tutto quello che tu stai pensando, quello che posso fare, ecco. E quindi abbiamo svelato alcuni segreti, dai, non vi preoccupate, non li diciamo a nessuno. Sometimes I think that it's better to never ask why. Right. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. Sto pensando a te mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno. Sto pensando a te mentre mi spoglio di ogni orgoglio, mentre guardo il mio destino. Sto pensando a te quando ricordo, mentre ancora sento il tuo profumo. Se Vasco Rossi era sincero quando appunto cantava questa, ha scritto questa canzone e l'ha cantata, sto pensando a te, quindi era una delle scuse, che è una delle mezze verità degli uomini nei confronti delle donne, quindi sto pensando a te, chissà, forse nelle canzoni c'è più profondità che nelle semplici parole di tutti i giorni. Ma comunque intanto sembra, da fonte facebookiana, come si dice così, sembra che Vasco Rossi riprenda il tour che aveva interrotto per cause di forza maggiore nel 2011. Le date saranno a giugno, quindi i fan aspettano con ansia il nuovo tour o la continuazione del tour di Vasco. But I'm a 90s bitch. I love it. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and disgusting. And when we first came here, we were cold. Machine Spectrum, Say My Name. CRM Happy Wake Up ancora con me, con Patrizia Curreri. Sono le 10.46, abbiamo ancora un po' il po' di tempo per stare insieme e raccontarcele un po'. Ecco, questo è un consiglio, comunque uno studio che viene appunto dall'Università di Osaka. Sbattere le palpebre fa bene al cervello. Il movimento viene ripetuto moltissime volte, ma non si fa caso nonostante sia determinante per la nostra salute. Oltre che umidificare la cornea e tenere pulito l'occhio, il battito delle palpebre avrebbe un'influenza positiva sul sistema nervoso centrale e sulla capacità di concentrazione. Gli studiosi hanno scannerizzato il cervello di alcune cavie con la risonanza magnetica e si è verificato che quando gli animali strizzano naturalmente gli occhi c'è una risposta cerebrale diretta e immediata. Questa reazione, secondo gli studiosi, sarebbe una sorta di velocissimo resettaggio del cervello in grado per una frazione di secondo e di disattivare i neuroni responsabili dell'attenzione. Che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa, se questo mondo non è mai come lo volevi tu. Se ti vien voglia di gridare, non fermarti più. E batti tuo animale, batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Che suono con la mia band, batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop e va contro il tempo, è la parte di te più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare, che ti sale su. Va dritto al centro del tuo cuore, non si ferma più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo credo, smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale. Essere naturale che batte, batte, batte, si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo, no, no, no, no, no, no, non passa. E allora batte, batte, batte, interminatamente batte il tuo animale, che nella gente, e se lo vuoi ascoltare, ti dirà, no, no, no, no, non passa. No, no, non passa. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, a volte batte nella musica pop, che va contro vento in velocità, e è un rischio, si sa. No, no, no, non passa. Abbiamo un battito che batte con un mio martello pneumatico. Come il battere appunto degli occhi, anche Raff ci parla del battito animale, il battito del nostro cuore che non deve fermarsi mai davanti a ogni cosa. E ricordo ancora i nostri numeri di telefono, potete inviare un sms al 335-5637-251 oppure potete telefonare allo 0921-923292, oppure se volete vederci oltre che sentirci potete andare nel sito www.crmpradio.it oppure anche su Facebook richiedendo la vostra musica anche da lì. E adesso so Swedish House, Don't Worry Child. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Don't you worry, don't you worry, child. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now. Buongiorno, si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Bad girl, I think you wanna play. See you looking so good with your poker face. Bottoms up, like it's your birthday. VIP, yeah, we run this place. I knock it down like you carry. Kitchen ain't like Rihanna, you come on the world queen. Be unthinkable, Alicia, king of sofa. If she let go, and I ain't gonna leave without her. This is for the girl that can get down low. The whole club wanna see you go. Shake, shake, like your famous girl. Head back, let down like the Vegas girl. Bass coming out so hard. A little jazz breaking every heart. Shake, shake, like your famous girl. Underneath the covers, intoxicated, you're like a drug girl. Grab a glass, down, rain tequila. I knock it down like a carry. The kitchen ain't like Rihanna. You come on the world queen. Be unthinkable, Alicia. Looking your sofa, you should let go. And I ain't gonna leave without her. This is for the girl that can get down low. The whole club wanna see you go. Shake, shake, like your famous girl. Vegas Girl, CRM Happy Wake Up. E come dire, le notizie strane non hanno mai fine. E di matrimoni strani ne abbiamo comunque parlato. C'è chi ha sposato il suo cuscino e così via. Ma questo ha dell'incredibile. Praticamente un uomo in Cina ha sposato se stesso in una cerimonia, e per il resto piuttosto tradizionale, con oltre 100 invitati, celebrata tra lui e una sagoma in cartone che lo ritraeva in vestito da sposa rosso.

Celebrate, e celebriamo anche questo giorno, questo mercoledì che avanza e che ci prospetta verso il weekend che tanti attendiamo. E stavo ancora riflettendo sulla notizia di poc'anzi del tizio che si è sposato da solo, che forse magari non aveva tutti i torti di fronte a quanto dice questa notizia, cioè una donna ha portato via il tetto della casa del marito sostenendo di avere diritto in base alla sentenza di divorzio. Infatti la donna era stata cacciata di casa dal marito alcuni mesi fa e il marito le aveva sempre impedito di tornare, anche solo per riprendere le sue cose. Così la donna si è rivolta al giudice e ha messo un'ordinanza che l'autorizzava a riprendere le sue cose che erano state acquistate con i suoi soldi, e quindi ha deciso di portarsi via anche il tetto che era stato realizzato appunto con i suoi averi. Veramente qualcosa di strano, strano, ma che succede? Adesso è Linkin Park, Burn It Down. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost, be ritornati a CRM Happy Wake Up con i Muse, Follow Me. Ebbene, bene, quindi potete continuare a richiedere la vostra musica preferita mandando un sms al 335 5637 251 o telefonando allo 0921 92 32 92, oppure anche dal sito www.crmhappyradio.it o anche da Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. E un po' ora abbiamo intrapreso un po' la strada delle coppie, dell'amore, e la scienza ci dà una mano anche per studiare questi rapporti veramente eccezionali, come appunto l'amore, la famiglia e così via. E la scienza conferma il detto: in amore vince chi fugge. E sì, non è solo un modo di dire, lo dimostrano alcune recenti scoperte fatte da neuroscienziati americani che si sono impegnati a studiare le reazioni del cervello alle emozioni. Il principio che regola il tutto ha un nome che non lascia spazio agli equivoci, vale a dire: se mi manca qualcosa la desidero, a più non posso. Se ho poca attenzione, considerazione, amore, ascolto, attrazione, cerco ardentemente di ottenerla. Può sembrare banale e intuitivo, specie pensando agli episodi della vita di ogni giorno, ma ora questo principio psicologico, per la prima volta espresso da Roberto Cialdini nel 2009, è stato messo alla prova. Sono infatti stati fatti degli studi registrando i comportamenti comportamenti della mente quando viene sottoposta ad alcune situazioni. Per esempio, se sullo scaffale di un negozio c'è scritto solo per te o linea in esclusiva, è più facile che il cervello attivi delle aree di interesse per la merce esposta. Gli psicopedagogisti conoscono bene il fenomeno tra i bambini. Secondo il principio della psicologia inversa, ogni qualvolta che viene loro negato qualcosa, e questo ce ne rendiamo conto tutti i giorni, questo diventa più appetibile, interessante e desiderabile per i piccoli. Ma è possibile applicare questo principio anche alle relazioni di coppia degli adulti, così complicate e complesse. Secondo gli esperti, appunto, questo è confermato. La mente è portata per sua stessa natura a ricercare ciò che le manca. Lo scorso anno è stato svolto in America questo studio all'Università della Virginia, e ripreso ora su tutta pagina dal New York Times. È crudele ma efficace, appunto, la ricerca. Gli psicologi hanno infatti preso una cinquantina di donne come campione, avvisandole che avrebbero selezionato un nutrito numero di uomini e disposto su Facebook i loro profili per cosiddetta amicizia. I profili maschili erano dei fake creati ad hoc dagli studiosi, che li hanno poi suddivisi per comodità dello studio in tre categorie: entusiasti, interessanti e disinteressati, a seconda del grado di interesse e coinvolgimento davanti ai profili delle donne campione. Quindi gli studiosi hanno mostrato alle donne profili maschili, tutti di gradevole aspetto. Secondo la suddivisione precedente del risultato, che queste, venute a conoscenza delle reazioni degli uomini al loro aspetto, hanno trovato più attraenti quelli più refrattari, mostrando così scarso interesse per i profili più dichiaratamente entusiasti dell'amicizia ottenuta. E insomma, il bello è impossibile, è un mito duro a morire, quindi chi di amore fugge viene inseguito. E parlando di amore, non possiamo non sentire appunto la bellissima canzone di Noemi, Se non ho amore. Che cos'è? Ce lo dirà poi la scienza. Tutto resta fermo, il sole sta nascendo. Macchiato dalla luce e la polvere, rimane negli angoli sul comodino accanto. Io non ci riesco, mi giro da una parte, ho la sensazione netta che tu sappia anche ascoltarmi quando sogno, anche a chilometri di tempo, tempo, tempo. Quelle lettere insieme alle canzoni ho scritto perché i miei pensieri cambiano, svaniscono e ritornano da te. Se non è amore, io non so. FM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Di Luminers, oh hey, a CRM Happy Wake Up. E mentre la scienza studia appunto le relazioni interpersonali, quindi positive, c'è anche chi all'Università di Pisa invece studia il caso dello stalking, e sono state svelate le radici cerebrali. E appunto abbiamo conosciuto la parola stalking leggendola nelle cronache, ma il neologismo indica un disagio che nuovo non è. La gelosia delirante e ossessiva che nuoce all'amante o all'amato è vecchia quanto l'uomo e ha una base biologica scritta nel cervello. A questo disagio sarebbero correlati altri comportamenti aggressivi estremi che possono essere diretti agli altri, come nel caso dell'omicidio a se stessi, facendo giungere al suicidio. Nelle parole dei ricercatori, le radici neurolari della cosiddetta sindrome di Otello si troverebbero in un'area della corteccia frontale, una zona del cervello che sovrintende complessi processi cognitivi o effettivi. E quindi i risultati importanti a livello iniziale sono appunto a livello iniziale, come avverte la stessa ricercatrice Donatella Marazzini. E l'indagine empirica delle basi neurali della gelosia è solo l'inizio, e sono necessari ulteriori studi per capire la radice biologica. La speranza dell'intero team di ricerca è che la maggiore conoscenza dei circuiti cerebrali e delle alterazioni biochimiche alla base dei vari aspetti della gelosia delirante possa far giungere a un'identificazione precoce dei soggetti a rischio. Quindi è davvero uno studio interessante, appunto perché si reputa la gelosia un sentimento del tutto naturale. Il punto è individuare lo squilibrio biochimico che trasforma questo sentimento in un'ossessione pericolosa. Quindi possiamo vedere come sono importanti questi studi anche a livello negativo, nel senso per poter trovare qualcosa di positivo. Ma noi la nostra mattina è quindi una musica danzante e ribelle. Questi sono queste Vici, Livers. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. I get a good feeling, yeah, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah, yeah, yeah.

di prototipi di cellulari di schermi flessibili ne abbiamo già visti in questi ultimi anni, ma il modello presentato da Samsung nell'ultimo CES di Las Vegas è forse più interessante tra quelli visti fin oggi. Il prototipo di telefonino si chiama Yomu, penso che si dice così, e si chiama appunto, è uno schermo a OLED a colori pieni e ben definiti, ma a stupire è proprio la possibilità di piegarlo e arrotolarlo, e questa la flessibilità lo rende anche meno fragile, perché a differenza del vetro questo materiale si piega e non si spezza, e il nostro team è stato in grado di creare un display ad alta risoluzione realizzato su una plastica leggera e non su un vetro, e quindi anche cadendo non si rompe, quindi è perfetto per coloro che creano sempre danni come me, quindi fanno cadere le cose a terra e facilmente si possono rompere. Yumo non è così, è lo schermo flessibile appunto di Samsung, è lo schermo flessibile presentato da Samsung appunto alla CES, e quindi sarà possibile forse a breve trovarlo appunto nei negozi, e quindi può essere comprato da un po' da tutti, e quindi può agevolare appunto quelli più disastrosi, gli uomini più disastrosi, le donne più disastrose. The troublemaker girl, you had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain, and I wanna know. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, oh, trouble, trouble Mickey, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. One day we gon' change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada, picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa. Mama keeps saying CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. It's a sweet romance, a spotlight dance. Girl, you shake me to my bones. Stanno comunicando che piove, il sole se n'è andato, ma noi continuiamo la nostra musica, dai, così magari lo facciamo ritornare, magari canticchiando un poco, dai, al contrario. Ricordiamo i nostri numeri di telefono, potete inviarci un sms al 335-5637-251 allo 0921-92-32-92. Or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest, don't delay this. I'm on that rollin', making a toast to the King MJ for life. I mess with good women, but you know that they bad. That's right. Your word is mine, don't take the ride. Just show your face, throw the light. I'm telling you, wanna know how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me. Making a toast to the King, we're back for life. Giving you on how to be, destroy your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. They say the sky's the limit, and to me it's really true. But my friend, you have seen nothing. Just a way to fly it through the trouble. Who's bad? bad for life. Is B-A-D, Michael Jackson, R-I-P. Catch a chica with a P-Y-T, all off in Paris, ooh wee wee. I've been around the world getting off the chain, and ain't nothing changed, luchando. Except now the sun and the moon know me by my first name, Armando. De santo no tengo nadie, diablo lo tengo todo, hazte por. Mamita, te tengo la carne, hazme favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In 4 years, catch me with a billion. Doing that moonwalk. Dico Michael Jackson con Bad, con un pitbull che anche lui ha dato prova di poter accoppiarsi, naturalmente musicalmente parlando, anche con Michael, grande Michael Jackson. E quindi questa, appunto, questa canzone per tutti quei fan che ancora amano questo cantante, piangono ogni volta che appunto lo vedono anche nei video. E oggi forse è una giornata un po' strana, perché è un po' tartasso. Uomini, voi uomini che oggi state in ascolto di CRM Happy Wake Up, e prima abbiamo parlato appunto del fatto delle vostre bugie, delle vostre mezze verità, e adesso della vostra affidabilità. Perché sì, uno studio della Charles University di Praga ha affermato che ti puoi fidare del fidanzato, dell'uomo che è accanto, solo se questo ha gli occhi marroni. Allora sì che la partner può stare tranquilla. Quindi quelli, i ragazzi con gli occhi castani sono maggiormente affidabili rispetto a quelli con gli occhi azzurri. Ora cade il mito appunto dell'uomo bello con gli occhi azzurri, i capelli biondi, e che è magari quello più attraente, mentre quello magari con gli occhi castani può avere appunto l'epiteto di essere invece più affidabile. La ricerca è stata effettuata raccogliendo un'ottantina di fotografie di uomini e donne con occhi azzurri e marroni, e mostrandole a un gruppo di quasi 250 studenti, chiedendo loro un giudizio sulla loro affidabilità in base a una scala da 1 a 10. I ricercatori hanno voluto assicurarsi che fosse in particolare il colore degli occhi a determinare l'affidabilità, e così è stato. Ma il discorso relativo al colore degli occhi può avere anche radici evolutive. Gli occhi azzurri hanno fatto, per così dire, la loro comparsa 10.000 anni fa, e sono stati una rarità che ha reso tutti coloro che li possedevano un'eccezione. Quindi spesso questa caratteristica prendeva il sopravvento rispetto ad altre. La connessione tra colore degli occhi e tratti di personalità possono essere specifiche delle differenti impostazioni culturali. Ad esempio, il patrimonio sociale turco impone che gli occhi azzurri siano associati al malocchio, un colpo d'occhio azzurro presumibilmente produrre maledizioni più di altri. La ricerca deve poter prendere maggiormente in considerazione tante culture molto diverse fra loro, ma un uomo deve essere giudicato dalle sue azioni, non dal colore dei suoi occhi, ammettono appunto altri. Quindi Chissà se qual è la, dove sta la verità, magari sta sempre in mezzo come tante altre cose. In questo caso parla la scienza, ma il nostro buon intuito ha sempre il sopravvento. Ma i Negrita dicono che oggi è il giorno delle verità, chissà. Stai sanguinando, non puoi più difenderti, stai respirando. Tu vuoi correre, sotto fuoco. Illuditi, convinciti che no, tu non ti brucerai. E questo è il giorno della verità. O sei solo tu che vivi a metà. Vuoi prenderti tutto, non nasconderlo. Non puoi dire no, non ti crederò. So che tu vuoi correre, ridere, urla non ti sento. Sei giovane, sei libero. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Gregor Salto, Buddha, Papayo, Mr. Worldwide, dai. It's a baya, todo lo malo es a baya. It's a baya, todo lo malo es a baya. It's a baya, todo lo malo es a baya. It's a baya, todo lo malo es a baya. Sube las manos pa' arriba. Salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vive en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. Pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. Pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos. Todo el mundo, bienvenido. No le gustan que sigan su camino. Siempre vestido de Nivo Casino. Tremenda pinta, always cookie. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo. Es la verdad. Siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. E sotto le note di Pitbull, mentre ritorna il sole, l'arcobaleno e tutto quello che si vuole dopo un po' di pioggerellina, noi ci salutiamo perché appunto è terminato e CRM Happy Wake Up, sono le 12 e dopo di me c'è Giacomo Sapienza con il suo programma Note. Ma vi ricordo l'appuntamento non venerdì ma lunedì con Meld e con CRM Happy Wake Up dalle 10 alle 12, quindi siete numerosi e siate più numerosi anche a mandare sms, così mettiamo tanta vostra musica preferita. E io vi lascio con, naturalmente, con una frase finale che ormai mi invece contraddistingue, questa è la di un Dalai Lama. Nessuno è nato sotto una cattiva stella, ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. Quindi pensateci un po', guardate bene il cielo, perché non siete nati sotto una cattiva stella, ma tutti siamo nati sotto una buona stella. E quindi vi saluto, un bacio a tutti, quindi ci vediamo lunedì con CRM Happy Wake Up e con me, con Patrizia Curreri. Bacioni, ciao, ciao!